Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, stiamo ritrasmettendo il seminario che si è svolto mercoledì 26 febbraio presso l'Università La Sapienza di Roma, nella Facoltà di Lettere e Filosofia, nell'Aula 6, organizzato dal Coordinamento di Solidarietà con il Popolo Palestinese, UDAP, GP e CORE, Comitato Romano contro Carcere e Repressione. Il seminario, dal titolo Il Tempo del Genocidio, è stata una bellissima chiacchierata con Sama Jabr, psichiatra, psicoterapeuta e scrittrice palestinese, che racconta la vita quotidiana nella Palestina occupata, che resiste al colonialismo sionista brutale e devastante. Se la solidarietà internazionale terapeutica è vitale per il popolo palestinese, il Sumud ci insegna la resistenza, che dà senso alle lotte di tutte le popolazioni oppresse nel mondo. Buon ascolto. Buonasera a tutte e a tutti. Stasera tratteremo di una tematica che non è sempre tanto ben vista all'università neanche. Stiamo qui a accogliere Sama Jabr, che dunque, come sapete, è psichiatra, psicoterapeuta e scrittrice. Viene proprio adesso per una settimana a Roma da Gerusalemme Est. Dunque lei ci farà presentazione iniziale del suo libro, ma della problematica appunto di questo tempo del genocidio. Lei vuole sempre massimizzare anche i suoi viaggi per portare qui e fuori la voce della Palestina e della resistenza palestinese. Dunque tutti noi credo che abbiamo bisogno di ascoltarla. Ok? Dunque gli passo subito la parola, poi riprenderemo dopo la sua introduzione. Thank you very much. Thank you very much. Good afternoon for everybody, and many thanks for the organizers for continuing the struggle for Palestine, because the struggle for Palestine is not over after the ceasefire. It should continue to achieve the overarching objective of ending the occupation, not only ceasefire in Gaza. Grazie mille a tutti. Buon pomeriggio innanzitutto. Grazie agli organizzatori per averci dato questo spazio e per permetterci di continuare quella che è la lotta per la Palestina, anche perché la lotta per la Palestina non è finita con il cessate il fuoco. La lotta per la Palestina continua per raggiungere lo scopo ultimo della liberazione della Palestina dall'occupazione. I have this combination of being a Palestinian resident of Palestine, a Palestinian person, but also a professional, a mental health professional. And I chose the language of mental health to communicate the Palestinian story to a wider audience, because I think that many people in the world can understand the language of emotions, of psychology, of health and mental health. So I hope that this is a language that can cross the checkpoints, the borders, the silencing technology and all the obstacles that have prevented the Palestinian voice from being communicated to the world. C'è un'altra cosa. I libri sono molto importanti e la traduzione di questi libri, soprattutto per la trasmissione della voce palestinese. Vedete, io sono una palestinese residente a Gerusalemme, sono nata in questo contesto e sono anche una professionista della salute mentale. Ho scelto, per comunicare le mie idee e il mio pensiero, di adottare il linguaggio della salute mentale, perché è un linguaggio interculturale, un linguaggio che può essere compreso da tutti nel mondo. È il linguaggio delle emozioni, della psicologia, è un linguaggio che è in grado di attraversare i checkpoint, di attraversare i confini, di superare quello che è il silenziamento che si vorrebbe sulla voce palestinese, che quindi è in grado di superare questi ostacoli che altrimenti verrebbero posti per la nostra comunicazione. Using the language of mental health, I want to communicate with you the urgency of the political situation in Palestine. We have been, over the past couple of visits that I made to Italy, I was talking about the urgency of ceasefire. Ceasefire has been achieved, but of course, ceasefire is not everything. Still, the situation is urgent, and that's why I'm grateful that the organizers here understand the urgency and the need to continue talking about Palestine. Now, there are two urgent things, urgent political plans that target the Palestinians that are being implemented. One of them is this huge, massive attack on camps and the status of refugees to end a very important element of the Palestinian history and Palestinian cause. The refugees and the camps are a reminder of the history of Palestine and the historical trauma of Palestinians. And this attack, the UNRWA services, and then on the camps, one by one, changing the reality on the ground. All of this is an attempt to mask this history and to create fait accompli, a situation where no one is calling for the rights of these people, no one is trying to hold Israel accountable for the right of return. So that's an urgent thing in Palestine that is being implemented, and many of the people who have raised their voices to call for ending, to call for a ceasefire in Gaza, are now relaxing, and they don't understand the urgency of this important attack on refugee camps. E io oggi scelgo di usare il linguaggio della salute mentale per comunicarvi l'urgenza della situazione in cui ci troviamo. Nel corso delle mie ultime visite in Italia ho spesso parlato dell'urgenza di ottenere un cessate il fuoco, della realizzazione di un cessate il fuoco. Ora questo cessate il fuoco è stato ottenuto, ma la situazione non si è sistemata, la questione non è affatto risolta. Infatti sono grata agli organizzatori per aver compreso l'importanza di continuare a parlare di Palestina. Continuare a parlarne significa anche riconoscere la presenza di due grandi urgenze. La prima riguarda il massiccio attacco ai campi rifugiati che sta avvenendo ora. I campi rifugiati sono, come i rifugiati stessi, dei promemoria, sono dei ricordi del trauma che stiamo vivendo noi in Palestina. Gli attacchi che vengono portati contro i servizi come l'UNRWA, contro i campi, contro i profughi in generale, sono volti a modificare questa realtà, sono un tentativo di cancellare e di mascherare la storia e la situazione e metterci davanti ad una nuova realtà, fait accompli. E nessuno ha il coraggio di, diciamo, ritenere responsabile Israele, e perciò molti di coloro che si sono esposti per chiedere un cessate il fuoco ora invece si sono rilassati perché è stato ottenuto. And the other urgent matter is the plans, the imperialist plans for Gaza. There is a dominant discourse about the impossibility of recreating life in Gaza and the plan to make of Gaza a Riviera in the Middle East. Not much is being said about the gas, the gas wells in Gaza, but this is underlying the plans for a Riviera. Palestinians see that it is very urgent to inject life in Gaza as soon as possible in an attempt to challenge these imperialist plans for Gaza. Injecting life means helping the Palestinians to continue living. Many of the people there, they are willing to continue living. They are attached and rooted to their land. But we should make it less miserable for them so that they can continue. Basic humanitarian aid, basic health, basic education are very important to be reinstalled as soon as possible to make life possible for people in Gaza. Otherwise, I'm afraid that the shocking language of making Gaza as a Riviera, which is provoking many objections in the world, will be made into reality if we are reluctant or if there is a delay in injecting life back into Gaza. So it is very important for governments, NGOs, any organizations and any solidarity groups to advocate for, I'm not talking about rebuilding Gaza, but providing basic humanitarian needs as soon as possible to restore the health system and the educational system, because those are the minimum requirements for a lifeline that will help people continue living there. Il secondo punto da discutere sono i piani imperialisti che riguardano Gaza. Il discorso dominante in questi giorni riguarda la presunta impossibilità di ridare vita a Gaza e la volontà di trasformarla in una riviera. Ciò di cui non si parla sono i pozzi del gas, che sono propri di Gaza e che sono, diciamo, soggiacenti a questo discorso dominante. Perciò è estremamente importante che si torni a portare vita a Gaza per contrastare questo discorso imperialista. Cosa si intende con il portare vita? Si intende aiutare le persone a tornare a vivere lì. I palestinesi sono molto radicati nel loro territorio, hanno delle forti radici a Gaza, ma quello che serve è un aiuto basilare umanitario che riguarda la ricostruzione del sistema sanitario ed educativo. Se ciò non verrà attuato, temo che questi discorsi che ci sembrano sconcertanti riguardo appunto alla costruzione di una riviera possano diventare una realtà se non c'è un'azione immediata, se c'è un ritardo nel riportare la vita a Gaza. In questo senso non si parla di ricostruire, si parla di sostenere attraverso la ricostruzione del sistema sanitario ed educativo, principalmente di garantire quelli che sono le necessità basilari umanitarie per poter restare lì. E questo è un appello che si rivolge ai governi, alle organizzazioni non governative, alle organizzazioni e ai gruppi di solidarietà che devono chiedere con forza che vengano garantiti queste necessità umanitarie basilari, e questo va fatto con grande urgenza. È il minimo indispensabile per continuare a vivere in questa terra. And let me go back to the importance of bringing the Palestinian voice to a wider audience and maybe say a few words about the last book published by Sensibili Alif Wali. The book is about bearing witness. What we observed in Gaza over the past year and a half was televised genocide. The details of what has been taking place in Gaza are known to an international audience. This is a big difference between the contemporary genocide that has been taking place in Palestine, previous genocides and horrors that were implemented in history. For those who were implemented in the past, we could claim that we didn't know. It was too late when we knew about it. For what is happening to the Palestinians, we cannot make that claim. We know it was televised. We know the details of it. Plenty was written about it. And writing and speaking about it makes a wider international audience witness bearers. And there is a moral responsibility bearing witness. And this responsibility entails that continuation to challenge the plans, to challenge the genocide, to challenge the nihilistic wish for the Palestinian people. I hope that this responsibility will be felt and will be carried on through the lifetime of people who lived this period, but will be carried on for the future in the hope that accountability is to be emphasized. I want to say that I'm always asked about the well-being of the Palestinian people and the mental health response to the crisis. And I have to say, we don't know, and maybe we don't have the capacity to respond to something similar to what we have been observing. But what I know for sure is that justice has a healing effect. And when we strive for justice, this is a contribution for the healing of the Palestinian people and also for the healing of everyone who has been watching what has been taking place in Palestine and who is affected by this. This is not something that we can deal with as we watch individually on our TV. That's why these gatherings are important, because it is in these gatherings that we can process things collectively. And the collective fervor and the revolutionary love can be generated in our collective gathering that might provide a response to the huge impact what has been going on. Again, I want to thank you for gathering people to talk about Palestine, and I hope that Palestine will be continued to be processed and thought of collectively, not only as individuals. Vorrei tornare all'importanza di dare voce e trasmettere un messaggio a un pubblico più ampio. E per fare questo partirò dal mio ultimo libro, che è stato edito con Sensibili alle Foglie. Questo libro è centrato sul concetto dell'importanza di rendere testimonianza. Nel corso dell'ultimo anno e mezzo abbiamo assistito a un genocidio trasmesso in diretta televisiva. C'è stato un proliferare di immagini, di narrazioni, e questo rende questo genocidio estremamente differente da tutti quelli che abbiamo visto finora. Perché nel passato potevamo dire che non sapevamo che cosa stesse succedendo, che non avevamo visto. Questa volta invece lo sappiamo, l'abbiamo visto trasmesso in televisione, l'abbiamo letto perché è scritto. In questo senso la scrittura è estremamente importante, perché concede un pubblico più ampio e attribuisce anche a chi legge ciò che viene scritto una responsabilità, che è quella di diventare portatori di questa testimonianza che si è assunta. E questo diventa una responsabilità morale che implica uno sforzo attivo per contestare ciò che sta avvenendo, per contestare questo genocidio. È una responsabilità che mi auguro che venga sentita e che venga assunta da chi ha vissuto questo tempo e che venga assunta per il futuro, perché è fondamentale cercare giustizia. Mi viene spesso chiesto com'è la situazione della salute mentale in Palestina e mi vengono poste domande sul benessere mentale dei palestinesi. Molto spesso rispondo che noi non sappiamo come affrontare la situazione, forse non ne abbiamo neanche la capacità, però è chiaro che la giustizia è chiave, è centrale per la guarigione. Questo riguarda sia le persone che stanno vivendo questa situazione, sia coloro che la stanno osservando dall'esterno. Non è una situazione che può essere gestita individualmente. Noi osserviamo queste immagini, abbiamo bisogno di elaborarle in qualche modo in maniera collettiva, e per questo incontri come questo sono estremamente importanti per poter processare ciò che sta succedendo. La soluzione non può essere individuale, ma deve essere collettiva, e per questo voglio ancora ringraziare gli organizzatori, perché è fondamentale che ci si continui a incontrare, che si continui a parlare di Palestina. Vogliamo fare veramente un dialogo con Sama. Penso ci sono tante persone di chi ha organizzato questo coordinamento di solidarietà per la Palestina, l'UDAP e tanti giovani del GPI, persone del Comitato contro Carcere e Repressione. Vabbè, faccio la prima domanda. Il progetto zionista in Palestina ha dei obiettivi soprattutto sulle nuove generazioni, sui bambini palestinesi. Qual è il loro progetto nel uccidere bambini palestinesi, nell'umiliarli, nel distruggere il loro futuro? Cosa vogliono fare? Cosa vogliono che sia il futuro della Palestina, uccidendo o incarcerando contro ogni legge internazionale o divina, conservando questo trattamento per i bambini palestinesi? Cos'è il loro obiettivo finale dopo tutto questo? Grazie. Io vorrei sapere invece da lei, che viene da quei territori, esattamente qual è l'umore, diciamo, delle persone, cioè quanta possibilità pensa lei che ci sia ancora, che possano in qualche modo resistere a questa terribile situazione. Okay, so I will take the first and last question together. For colonization in general, including the Israeli colonization, the Israeli occupation, they don't see Palestinians as human beings. They don't see children as children. One of our colleagues spoke about unchilding, removing the characteristic of children from Palestinian children. And they don't see, for women, they see them as a demographic bomb. They have been described in Israeli literature as demographic bomb because of their fertility rate. When we talk about children, We are talking about 48% of the Palestinian people. One third of the Palestinian people go to school. And I do believe that in political detention, they target male adolescents because they want first to damage people from an early age of vulnerability. Adolescents are emotionally labile and tend to be provoked easily. They target them, they provoke them. Second, they want to inject a feeling of guilt in Palestinian parents and fathers who could not prevent detention of their children. Third, they want to intimidate the whole Palestinian nation and bring it to its knees. That's why our children are targeted. In Israeli literature, in 2014, Ayelet Shaked, when the Israelis went to Gaza for other massacres in 2014, she said, "Kill the children and their mothers. They are snakes and little snakes." So again, they don't see Palestinians as human beings, and that facilitates the massive killing of them. I want also to say, even if our children are not targeted, the traumatogenic atmosphere in Palestine imposes a very painful reality in children, where we see children being parentified. Children carry the burden of adults on their shoulders. I see little boys and girls who take the responsibilities of a father who is politically detained, or of a mother who is in grief because she lost another son and she is not emotionally available for her children. So even if they are not targeted directly, the consequences are very heavy on them because of the traumatogenic atmosphere and loss and violence in Palestine. E prenderò insieme la prima e la ultima domanda. La colonizzazione in generale, e inclusa quella quindi israeliana in Palestina, porta alla deumanizzazione, quindi agli esseri umani che non vengono considerati come tali. Questo noi lo vediamo in Palestina soprattutto per quanto riguarda i bambini. Si è parlato da parte di alcuni suoi colleghi di unchilding, quindi un fenomeno che è volto alla deinfantilizzazione, fondamentalmente alla rimozione dei caratteri della concezione di bambini in quanto bambini. Per quanto riguarda le donne, invece, vengono descritte come bomba demografica in relazione al loro quoziente di fertilità. Bisogna tenere presente che il 48% della popolazione palestinese è composta da bambini o comunque giovani. Un terzo del popolo palestinese va a scuola. Quindi la politica detentiva è sicuramente mirata, prendendo di mira esplicitamente i bambini, soprattutto adolescenti, maschi. Questo viene fatto attraverso delle provocazioni attive, volte poi appunto alla detenzione, che diciamo poi genera un senso di vulnerabilità e in qualche modo quindi viene ad impattare sullo sviluppo del ragazzo. E quindi questo ha un triplice scopo, che è prendere innanzitutto di mira il ragazzino, l'adolescente che viene imprigionato, ma anche la sua famiglia, perché in secondo luogo appunto sono i genitori che si trovano a provare senso di colpa, soprattutto i padri che si rendono conto di non essere in grado di proteggere i loro figli. E in terzo luogo è un'intimidazione per quanto riguarda la nazione palestinese come concetto generale, ed è volta appunto a mettere in ginocchio il popolo stesso. Nel 2014 una delle direttive è stata uccidete i bambini e le madri perché sono serpenti e piccoli serpenti. E quindi si torna al principio di deumanizzazione: non sono esseri umani, e se non si stanno uccidendo, se non si stanno umiliando degli esseri umani, diventa più facile. Anche quando i ragazzini e i bambini non vengono presi di mira specificamente, però si trovano a vivere in un'atmosfera che può essere definita come traumatogena, e questo porta ad una serie di conseguenze sul loro sviluppo. Nello specifico si assiste ad un fenomeno che è quello dei bambini che vengono genitorializzati, nel senso che le circostanze e l'ambiente gli impongono dei fardelli che li portano a crescere e a comportarsi in delle maniere che vanno oltre la loro età anagrafica. Quindi assistiamo a molti bambini e molte ragazze che si trovano ad assurgere ai ruoli dei loro genitori che per qualche motivo non possono svolgerli, quindi bambini che fanno quello che dovrebbe fare il padre che però è detenuto, o ragazze che si assumono il ruolo della madre che magari è in lutto e quindi è emotivamente distante. E tutto ciò ha delle pesanti conseguenze, ovviamente. Allora, ieri il vice ministro della Knesset a una intervista a una radio ultraortodossa, tanto per cambiare, perché appunto voglio dire, ha dichiarato che messe a parte i bambini e le donne, tutti gli uomini palestinesi vanno sterminati perché sono subumani e feccia. E coloro che vengono liberati in base agli accordi fatti con Hamas devono andare a Jenin per poi venire sterminati pure loro. I think people are going too mad with their declarations and with the language that is being used, and it is shocking that this is being said on media. Like, we've been listening to this in more closed setting, but now it seems that the global atmosphere is tolerant to this kind of racist, imperialist, colonialist discourse that dehumanizes others. I want to go back to your question about the general mood in Palestine. Of course, it's a mood of grief after so much loss, human loss, but also people are very afraid of the replication of genocidal acts in the West Bank. And this is what we have been observing in Jenin, Tul Kerem, Qabatia, in the north, and we know that it will go to other parts in the West Bank. Here, let me tell you about an especially bitter experience in our grief of the reality. The worst of it is fratricide, when Palestinians start killing each other, when some Palestinians take role in besieging the camps and paving the way and facilitating the job for the Israelis. If we recover from the loss and pain of bereavement and grief that was brought upon us by genocide, I don't know how we're gonna recover from fratricide. Sì, rispetto all'ultima cosa che è stata detta, questa dichiarazione mi sembra che ormai ci sia una grandissima, diciamo, libertà di espressione nelle parole e nel linguaggio, soprattutto sul fronte ormai sempre più internazionale. Ciò che sconcerta è la scelta di parole e dichiarazioni diciamo in ambito mediatico, però l'atmosfera internazionale sembra abbastanza incline ad accogliere questo tipo di discorso ormai. Tornando alla domanda sull'atmosfera e in Palestina, sull'umore in Palestina, chiaramente l'umore prevalente è quello del cordoglio, e c'è anche grande paura che serpeggia tra le persone, soprattutto in Cisgiordania. C'è il timore di vedere una replica nella Cisgiordania di ciò che è accaduto a Gaza, e si iniziano a vedere le avvisaglie di questo processo, di questi avvenimenti in varie circostanze, come a Jenin, a Tul Kerem nel nord, e quindi abbiamo paura che questo, insomma, porti poi a un'espansione progressiva. Però lasciate che vi dica di un'esperienza particolarmente amara in questo contesto di lutto e di cordoglio, che è l'esperienza del fratricidio. Con questo mi riferisco a quando dei palestinesi si uccidono a vicenda. In questo modo finiscono per in qualche modo spianare la strada a Israele. Ecco, non so come faremo, ma so che potremo in qualche modo riprenderci dal dolore causato dal genocidio. Quello che non so è come faremo a riprenderci dal dolore causato dal fratricidio. Quest'ultima cosa mi introduce proprio alla domanda che avevo in mente di fare, ovvero io ho letto degli articoli che sono nel libro pubblicato col titolo Dietro i fronti, qui in Italia, dove tu parli dell'autorità nazionale palestinese, addirittura la definisci come se si identifica con l'aggressore. Però volevo chiederti e spiegare a tutti e tutte che danni provoca sia per la resistenza e sia anche per l'identità palestinese la politica della NP. Allora, la prima cosa che volevo chiedere era legata al concetto di resistenza palestinese e soprattutto, diciamo, come può essere un concetto che può essere esteso anche, diciamo, a noi che siamo qua, a noi italiani. E la seconda cosa era che, stando qua in Italia, ho notato che comunque i sionisti sono anche qua in Italia e, diciamo, espongono apertamente il loro sostegno a Israele e anche, diciamo, licenziando persone che lavorano per loro, che non sostengono, diciamo, il fatto che non ci sia nessun genocidio in Palestina. E però la cosa che io fatico a capire è come noi riusciamo a vivere nell'indifferenza rispetto a queste cose. Io volevo fare una domanda ricollegandomi a questa fatta dalla ragazza, e se ci sono, quali sono le forme di resistenza in detenzione amministrativa e in detenzione e, da parte sia dei minori che degli adulti, sia uomini che donne. Let me start with the concept of resistance. Now, the Palestinian resistance has been exposed to a smearing campaign by Western mainstream media. It was described only as suicide bombing, military resistance. But we know that Palestinian resistance is a very wide spectrum, and we want it to be wide and variant so that everyone can find their little contribution to resistance. So by simply continuing to live on Palestinian land, or by insisting on educating your children, or by replanting your olive trees when they are uprooted, rebuilding Palestinian demolished homes or villages, all of those are different forms of resistance. I remember an article that I wrote when I was a medical student, maybe 28 years ago. It is still valid. It has the title Palestinian Resistance, the Legitimate Right and the Moral Duty. And this article does not avoid the difficult question about military resistance, but it is reminding ourselves and the world that resistance is much wider than the military option. And it has a little discussion about when the military option is a suitable and moral option for Palestinians, and what are the restrictions that need to be made in order to maintain the moral compass of the Palestinian struggle. I have always believed that the Palestinian cause is, and the Palestinian struggle is, a challenge to world order. So I don't think that only Palestinians should be involved in resistance. I think Palestinians should be keen on the intersectionality of their struggle with black people, with marginalized population, with feminist movement, with other people who challenge injustices and domination. By doing so, I think other people can join Palestinians in this wide spectrum of choices of resistance. And I think it is important because now the reverberations of what is happening in Palestine, especially with this massive trauma that qualifies, that is being discussed if it is genocide or not. So this is not, it is a trauma to humanity. It is not a trauma that belongs only to Palestinians. And of course, it will have global reverberations. And I think that the resistance should not be restricted to Palestinians alone. And I want to connect this question with the other question about the impact, the identity, the fratricide and the damage to the Palestinian identity, because I think solidarity movement can play a mitigating role that can provide some damage control that can result from a fratricide and internal fight. Cominciamo con il concetto di resistenza. I media occidentali hanno condotto una grande campagna di diffamazione su quello che è il concetto di resistenza palestinese, riducendola tendenzialmente a quello che è l'attentato suicida e il bombardamento suicida. In realtà la resistenza palestinese è molto di più, è un concetto ampio e pieno di variabili, in cui ognuno può trovare una propria dimensione. Resistenza è continuare a vivere sul suolo palestinese, resistenza è ricostruire un edificio distrutto o un villaggio completamente raso al suolo, Resistenza è educare i propri bambini secondo la cultura palestinese, resistenza è ripiantare il proprio olivo dopo che è stato sradicato. Ricordo 28 anni fa un articolo che ho scritto, che è tuttavia ancora attuale, che si intitolava La resistenza palestinese tra diritto, diritto legittimo e dovere morale. In questo articolo sostenevo che appunto la resistenza sia molto più un concetto molto più ampio, che non prevede soltanto un'opzione militare. L'opzione militare può essere talvolta contemplata, ma ci sono delle restrizioni, ci sono delle situazioni appropriate e va gestita secondo una bussola morale ben precisa. La resistenza palestinese è in un certo senso una sfida a quello che è l'ordine mondiale. In questo senso ritengo che i palestinesi dovrebbero essere molto propensi all'intersezionalità della lotta, perché questo non è uno scontro che riguarda soltanto noi. Questo implica che ci debba essere un dialogo con altri gruppi che sfidano l'ingiustizia e che si battono contro l'ingiustizia. Penso ai movimenti femministi, a Black Lives Matter, a movimenti di questo tipo che sono sorti in tutto il mondo. È importante che questo ampio spettro di opzioni venga preso in conto e che quindi ci permetta poi di unirsi ad altre forme di resistenza, ad altri movimenti. Anche perché quello a cui stiamo assistendo, quello che si dibatte se definire o meno genocidio, è un trauma incredibile, un massiccio trauma che viene inflitto non soltanto alla comunità palestinese, ma all'umanità stessa, e che quindi avrà necessariamente dei riverberi globali. Non si tratta quindi di una questione soltanto locale. E ora mi ricollego all'altra domanda che è stata fatta sulla questione del fratricidio e del potenziale danno all'identità palestinese che questo implica. In questo contesto io ritengo che i gruppi di solidarietà internazionale possano assumere un ruolo di mitigazione e che possano in qualche modo diminuire questi scontri fratricidi e quindi diciamo avere un effetto positivo. Ask me the complex question about how the fratricide affects. First, I want to tell you about how I feel when you ask this question, if I may. I think this is a very difficult topic, and I think many Palestinians, when they speak to international audience, they pray within themselves that no one would ask this question. It's painful to talk about this, really. It is painful. You know, talking about rape is difficult, but talking about rape within the family, incest, is more difficult and more shameful. And I'm also aware of the impact that this might bring on international solidarity. It can be very discouraging for people in international solidarity to talk about Palestinian fighting with each other. It's very complex, it creates confusion. People tend to say, okay, this is too complex for me, I don't want to learn about it. So let me start by saying this. Having said that, I don't want to shy away from answering your question. I think the impact on identity is huge, and I think we need to put that in context in order to better understand it. And in La Damnée de la Terre, the book of Frantz Fanon, he talks about fratricide, calling it fratricide. So it is, for me, it is reassuring to know that this is a phenomena that doesn't belong only to Palestinians. It is one of the painful consequences of occupation, colonization. The British created their divide and rule strategy. And we know in every context of colonization, there are certain people who are empowered to play a role that is closer to the colonizer and to try to be another tool to control and subjugate the people. I wanted to believe that we Palestinians are immune of this, but we are not. And that's sad. And we see it happening. We saw it happening at different stages, and it is happening now. I have always talked about trauma and the mental health consequences of trauma, and I have argued that it is not restricted to the individual consequences of PTSD. Chronic historical trauma can damage the social fabric. And by this damage to the social fabric, it can result in consequences like fratricide where Palestinians start, or the colonized people start fighting with each other. Now we are observing this in Palestine. We saw in December a siege of Jenin refugee camp that lasted for more than 1 month, resulted in the killing of more than a dozen of people. We saw videos of torture being leaked, and that was very distressing for a people who are at the same time grieving genocide in Gaza. And I know that this can create a lot of confusion for people outside Palestine who are in solidarity with the Palestinians. I think that we Palestinians should not be ashamed to talk about this. We need to talk about it within ourselves. We need to not shy away from discussing it with our friends who ask us direct questions about it. And we should connect that to the overall damage and consequences of the occupation. This is a phenomena that can be best understood as one of the consequences of colonization. If we stop avoiding it as a taboo, and if we put it on the table, we will start finding solutions for this. As far as we are ashamed of it and we don't want to talk about it, it will continue. And I am for the option of putting it on the table and discussing it. So the impact on identity is huge. The impact on solidarity is huge. This is a big threat for international solidarity with the Palestinian. For the last question about people in detention and how can they resist, I want to remind you of Khadr Adnan, the Palestinian leader of the hunger strikes in prison. This man managed to be on hunger strike several times, and he freed himself from administrative detention, and several other Palestinians copied him and started hunger strike on their own. But unfortunately, in May 23 was his last strike. This time Ben-Gvir became responsible for prisons and made the conditions in prison more harsh. And this time Khadr Adnan did not receive the necessary medical aid to save his life, and he was left in his cell to die. And when he died, Israeli journalist Eddie Cohen published a statement on his Twitter saying that this guy committed suicide. And this reminds me of Al-Arabi Ben Mahdi, one of the six leaders of the FLN, Front de Liberation Nationale in Algeria. This guy was killed by the French police 70 years ago. And then they staged a scene that made him look as if he committed suicide. And they said repeatedly that the guy committed suicide. It was not until a few months ago when Macron made a confession and said that he was killed by the French police. So this is interesting, because pathologizing people and using something that can be perceived by the Muslim nation as a sin. Suicide is not only a mental health issue, but a sin. And here, using pathologization was a way to take credibility from those leaders who challenged the occupation. Torniamo alla domanda sul fratricidio e l'impatto sull'identità di questa situazione. E innanzitutto lasciate che vi dica come mi senta a questo riguardo. Questa è una di quelle domande che quando si va a fare un incontro pubblico si spera sempre che nessuno parti nel pubblico, e perché è in realtà molto doloroso parlare di questo argomento. Per farvi capire, parlare di uno stupro è sempre molto difficile. Quando questo stupro avviene in famiglia, quindi si tratta di incesto, diventa ancora più difficile. Chiaramente si tratta di una questione che ha un impatto non indifferente sulla solidarietà internazionale, è un argomento complicato, complesso, che crea confusione e molto spesso viene percepito come troppo complesso dalle persone che quindi poi rifiutano in toto la discussione e decidono di non volerne sentir parlare. Detto ciò e fatta questa premessa, non voglio ritrarmi dalla discussione. E anche perché è una questione che ha un fortissimo impatto sul concetto di identità. Credo che sia fondamentale contestualizzare per poter capire a fondo Fanon ha parlato di fratricidio e io questo lo trovo rassicurante perché mi rendo conto che non è una questione solo palestinese, ma che può essere interpretata come una conseguenza dell'occupazione e del colonialismo. Gli inglesi hanno sviluppato il principio di dividere e governare. C'è sempre nelle situazioni di colonizzazione una parte della società o qualche gruppo sociale che si trova più vicino ai colonizzatori, agli oppressori e che diventa in qualche modo uno strumento per controllare, per soggiogare. Ho a lungo sperato che la Palestina fosse immune a questo fenomeno, ma purtroppo non lo è. È molto triste e lo vediamo succedere, l'abbiamo visto succedere in diversi momenti e lo vediamo succedere ora. Io mi sono sempre concentrata, ho sempre parlato del trauma cronico e storico che viene vissuto in Palestina. L'ho sempre affrontato nel quadro del danno che questo trauma storico e continuativo porta al tessuto sociale palestinese. Ecco, il fratricidio è una di queste conseguenze della colonizzazione a cui assistiamo in vari contesti, tra cui quello palestinese. A dicembre abbiamo assistito all'assedio di Jenin per diversi giorni. Abbiamo visto delle scene di tortura che sono state trasmesse. Abbiamo testimoniato diverse uccisioni. Questo crea confusione all'interno e all'esterno. Io credo che noi non dobbiamo vergognarci di parlare di questi argomenti e credo che siano argomenti che vanno discussi sia tra di noi sia con i nostri amici. Credo che sia fondamentale contestualizzarle come conseguenze dell'occupazione in modo da poterli meglio comprendere e che non bisogna renderli argomenti tabù, bisogna metterli sul tavolo e discuterli, e questo è fondamentale anche sul piano della solidarietà, anche perché se ce ne vergogniamo e non li affrontiamo permettiamo a queste situazioni di continuare e di peggiorare. Quindi io sono a favore della condivisione di questa discussione, nonostante mi renda conto che ciò ha un grandissimo impatto sia sulla questione della solidarietà internazionale sia sulla questione interna della concezione identitaria. Ora passo al discorso sulla detenzione e sulle modalità di resistenza a cui assistiamo. E per parlare di questo scelgo di presentarvi il caso di Hanan, che è un detenuto che ha fatto moltissimi scioperi della fame durante i suoi periodi di prigionia e che molto spesso a questi scioperi della fame hanno finito per permettergli di uscire dalla detenzione. Molti hanno preso esempio e hanno adottato questa tecnica. Ecco, nel maggio 2023 Hanan ha fatto il suo ultimo sciopero della fame. In quel momento Ben Gvir era stato appuntato come responsabile delle prigioni e ha reso le condizioni di carcerazione molto più dure per i prigionieri palestinesi. Questo ha implicato che Hanan sia stato lasciato a morire nella sua cella. All'indomani della sua morte, il giornalista israeliano Eddie Cohen ha fatto un tweet in cui si riferiva a questa morte come a un suicidio. Questo è molto rilevante perché si tratta di una patologizzazione nonché di un'insinuazione che non è soltanto legata ad una problematica della salute mentale, ma che nella nostra cultura è anche concettualizzabile come un peccato. E mi fa pensare anche a un precedente storico, Mahdi del Fronte di Liberazione Nazionale Algerino venne ucciso dalla polizia francese 60 anni fa, anche questo fu inscenato come suicidio, fu rivendicato come suicidio e soltanto recentemente, pochi mesi fa, Macron ha ammesso pubblicamente che invece non si trattò di un suicidio bensì di un'uccisione. L'ascrizione di queste morti ad atti volontari, ad atti di suicidio, è un modo per togliere la credibilità a questi atti e quindi per minarne l'importanza. Ciao, allora io volevo chiederle, nel contesto attuale, al tempo del genocidio, arrivati al primo cessate il fuoco, vorrei sapere se ha riarticolato o se intravede delle affinità tra due termini molto importanti, il Sumud e Habe. Come rielaborerebbe oggi in termini emotivi e se questi due termini nel contesto attuale se si possano ancora risignificare? Ricollegandomi alla prima domanda che ho fatto, volevo sapere invece qual è la posizione dei palestinesi in generale rispetto ad Hamas. Collego alla domanda precedente, i palestinesi della diaspora, che cosa pensano, cosa dei palestinesi della diaspora rispetto a questo fratricidio che lei ci ha detto è un danno enorme. E la seconda domanda, cosa lei pensa sulle azioni che potrebbe fare la solidarietà internazionale? Cioè noi siamo qui, siamo fuori dalla Palestina, assistiamo agli orrori, ma che cosa possiamo fare di concreto? L'anno scorso noi come Assopace Palestina abbiamo fatto una iniziativa pubblica collegata a una campagna internazionale sull'UNRWA. Forse queste iniziative indirette possono giovare più di tante altre manifestazioni che magari lasciano il tempo che trovano. So maybe I can give one answer that somehow responds to the three questions that we heard. First, I want to say a word about Sumud and the Hebe and the multiple uprisings in the Palestinian society. Again, here we are talking about two sociological phenomena. One phenomena is that whenever there is vertical violence and we don't respond to it, we internalize it and we start expressing it against weaker people in the society. If we respond to the vertical violence, that will generate unity and sumud. And the word sumud, for those who are not familiar with it, is a word that includes psychological resilience, but it is not only psychological resilience. It is psychological resilience and it is action oriented. It's an action oriented in resistance, meaning that when people react to adversity, individually or collectively, this has to do with their steadfastness, but it is also about channeling their capacity against the adverse conditions that intend to impose helplessness on them. So any action in the face of adversity is considered to be sumud. And sumud is not a static thing. It can improve, it can expand, it can shrink, it can be damaged by actions of fratricide and other things. Now to go back to the role of Palestinians in diaspora and international solidarity. I think international solidarity, when they validate the Palestinian resistance, they can minimize acts of internal Palestinian fighting. So they can play a mitigating role in protecting the Palestinian plight and the Palestinian struggle against the real oppressive power, the power of the occupation. Palestinians in diaspora are more than 50% of the Palestinian people. They have an important role to play. They have an important role, a very important one to play in the Palestinian struggle and in supporting the Palestinians who continue to live in the territories. Now, I know that many of them have their own fears and predicaments. Many of the Palestinians in diaspora, those are children of refugees. They feel that their situation is precarious. So if you become a second or third generation Palestinian in Italy or in Germany and you are a doctor, you are more concerned about your personal survival. And sometimes the Palestinian cause can destabilize your status that you have just achieved. I think the Palestinians in diaspora need to organize their groups and their communities to become more effective in their support of the Palestinian people. The lack of unity and the lack of strategy might make them feel vulnerable outside. And as far as they feel vulnerable, they cannot be of real support for the Palestinians on the ground. So it is important, the Palestinian international solidarity, the international solidarity with Palestine, to support the Palestinians in the diaspora so that they can support their people on the ground. 48 is another important section of our society. We're talking about 1.1 million people who reacted to the Habib, they reacted to the attack on Gaza in May 21, and they were effective in their reaction. And I think that many of them are... Listen, it's difficult without polls to say how people feel about certain group. And you know, as far as political questions are criminalized, we cannot really ask people about their opinion of Hamas. We can read from the events that took place in 51 that there is a lot of sympathy and support for Gaza. And I want to tell you, I visited Gaza many times before October the 7th. And I want to tell you that every few meters, I stop to read the calligraphy on the walls. In Gaza, they write slogans for every Palestinian city, for every Palestinian community. I took pictures with slogans, with calligraphy, saluting people in Sheikh Jarrah. When I was in Gaza, the people in Gaza were collecting money. Once they were collecting money for the earthquake in Turkey, and once they were collecting money for the flood in Libya. Mind-blowing that these people who are living in serious hardship, where food insecurity was 60%, unemployment and poverty above 50%, they were expressing solidarity, human solidarity, to other people in the world who might be better off than themselves. And I think that this can be felt by other Palestinian communities, and they just have this feeling in exchange with them. And I guess there is a lot of empathy and support for the people in Gaza. I cannot say Hamas or non-Hamas. I think the idea of resistance has been well and alive all through the Palestinian history, despite the fact that some of us act in a way that doesn't represent the heart and the spirit of the vast majority of people. But the idea of resistance has not been burnt in the Palestinian society. All through history, there were Palestinians supporting the idea of resistance and were willing to sacrifice many dear things, many treasured things, for the idea of resisting the occupation. Credo di poter dare una risposta a queste tre domande. Cominciamo dal discorso sul Sumud e sul Habe, nel quadro delle diverse evoluzioni che ci sono state nel contesto palestinese. Si tratta in entrambi i casi di fenomeni sociologici. Quando c'è un esercizio di una violenza verticale che non trova una risposta, la mancanza di risposta provoca di fatto una pressione sulle persone più deboli. Quando invece questo esercizio di violenza verticale trova una risposta, si genera il Sumud. Lasciate che faccia una piccola parentesi per chi non ha familiarità con questo termine. Il Sumud include il concetto di resilienza psicologica, ma non si riduce a questo. È un approccio che è orientato all'azione. È legato a come le persone reagiscono all'avversità dal punto di vista individuale o collettivo. Sumud non è un concetto statico. È un concetto che può migliorarsi, espandersi, ridursi. È una capacità di risposta a una condizione oppressiva. Il concetto di Sumud può anche essere danneggiato, nel caso per esempio di un approccio fratricida alla questione. Ecco, io ritengo che la solidarietà internazionale di cui mi avete chiesto possa agire in senso positivo su questo, possa agire per minimizzare gli atti di conflitto interno e quindi in un certo senso con un ruolo anche di protezione di quella che è la lotta verso il vero oppressore e quindi verso il vero nemico. Mi avete chiesto dei palestinesi coinvolti nella diaspora, si tratta più del 50% dei palestinesi e giocano sicuramente un ruolo molto importante. Il ruolo di supporto sarebbe sicuramente molto importante, ma risponde anche ad una serie di situazioni e di problematiche che si riducono al fatto che queste persone vivono all'estero e molto spesso hanno diverse paure. Si tratta di figli di rifugiati, sfollati che si trovano in condizioni precarie. Stiamo parlando di palestinesi di seconda o terza generazione che magari vivono in Italia o in Germania e hanno come preoccupazione principale la propria sopravvivenza, il mantenimento della loro condizione che appunto non è stabile, e in questo caso il supporto e il coinvolgimento con la causa palestinese può creare una situazione di destabilizzazione. La mancanza di unità e di strategizzazione li rende vulnerabili, e le figure vulnerabili non possono raggrupparsi per offrire un supporto reale. Ecco, in questo senso sarebbe importante che si riuscissero a creare dei gruppi di solidarietà, e la solidarietà internazionale può aiutare in questo, può aiutare questi palestinesi. Mi avete chiesto anche della questione dei palestinesi del 48. Si tratta di un numero molto, molto rappresentativo di palestinesi, stiamo parlando di 1,1 milioni di persone. Nel quadro della situazione del maggio 2021 c'è stata una risposta molto effettiva con l'Habe, appunto. È però difficile definire come le persone si sentano e che opinioni possano avere dal punto di vista politico, soprattutto in un contesto in cui la discussione non è propriamente libera e si rischia di essere criminalizzati nell'espressione del proprio pensiero. Perciò non so come si sentano riguardo ad Hamas, ma posso dire con certezza che supportano Gaza. Io sono stata più volte a Gaza, ci ho lavorato, e sono rimasta colpita dal fatto che scrivessero degli slogan sulle pareti degli edifici, degli slogan di solidarietà per le comunità palestinesi, per i palestinesi all'estero. E una volta che sono andata stavano raccogliendo dei soldi per sostenere i libici dopo che c'erano state le inondazioni, un'altra volta stavano raccogliendo dei fondi per sostenere i terremotati della Turchia. Si tratta di un contesto in cui la mancanza di impiego e la povertà superano il 60% di incidenza, eppure queste persone esprimono solidarietà a delle comunità che molto spesso stanno meglio di loro. E questa è una grandissima dimostrazione di empatia. Perciò posso dire che con certezza che c'è un supporto a Gaza. Non so se Hamas o non Hamas, però il supporto a Gaza lo posso identificare con certezza nei discorsi che incontro. L'idea di resistenza è forte e viva nella storia palestinese, si identifica in tutta la storia palestinese. In questo senso si inserisce il supporto all'idea di resistenza, e abbiamo visto che ci sono molte persone che sono disposte a sacrificare anche le cose più care per questo. Tu porti nel tuo lavoro l'impegno come psichiatra, vuoi mettere avanti la dimensione politica e sociale nella psicologia, nella psichiatria, nella medicina in generale. Però nel tuo libro ho letto che l'APA, l'American Psychiatric Association, tende a criminalizzare la resistenza palestinese, a disumanizzare comunque i palestinesi e dunque a non riconoscere questo aspetto politico della salute mentale. In questa situazione è, a volte può essere anche difficile di portare l'identità di psichiatra, o no? Concordo sul fatto che una delle nostre pagine più vergognose sono la lotta fra tricida in Palestina. Questa bisogna identificare il responsabile di questo, perché quando noi palestinesi abbiamo evidente davanti a noi chi è il responsabile e chi ha disatteso tutti i principi della lotta e della resistenza palestinese, noi abbiamo la responsabilità di puntare il dito, identificare i responsabili di questo. Negli anni 50 è iniziata la strategia di spostare i palestinesi all'estero, fuori dalla Palestina e soprattutto di Gaza. Ma Gaza è rimasta quella spina in gola a tutti quelli, i 14-15 presidenti americani e non so quanti altri primi ministri, presidenti zionisti, che hanno cercato di espellere i palestinesi soprattutto da Gaza. E soprattutto dal 93 in poi abbiamo anche la responsabilità dell'autorità palestinese, che è diventata partecipe a questo, perché non possiamo non vedere la loro responsabilità nel fare danni alla causa palestinese, perché se andiamo senza spiegare a lungo, guardare il processo di Oslo, abbassato moltissimo il livello delle richieste e della lotta del popolo palestinese. La resistenza in questo momento ha dato tetti molto più alti di richiesta e la popolazione segue la resistenza. La domanda è molto piccola. Secondo voi, quanto durerà l'autorità palestinese dopo questo scenario e dopo il loro tradimento? Forse uso parole troppe, ma sono responsabile delle mie parole, non le addosso a voi. Quanto durerà una autorità di questo tipo che ha tradito e disatteso tutto il sogno, la lotta precedente del popolo palestinese? Grazie. Maybe a very short, I will start by your question and I will give a very short answer for your long question. I think there is an important decline, moral decline in their behavior. And I think that they should be held accountable, and at the same time we should work preemptively at increasing, improving the Palestinian people's immunity to any possible divide and polarization and internal killing. Period. I don't want to say anything else about this. Darò una breve risposta a questa lunga domanda. C'è sicuramente un declino morale nel loro comportamento e devono essere ritenuti responsabili. Quello che ritengo è che bisogni lavorare preventivamente per incrementare l'unità del popolo palestinese per evitare una frammentazione. E questo è tutto ciò che dirò su questo argomento. As for your very important question also, I want to say that first, the myth of neutrality and impartiality in mental health has been exposed by the outspoken discourse of mental health institutions on Ukraine and their historical silence and silencing on Palestine. And I want to say that there is an overarching problem with these institutions. Many of them are led by people who have Orientalist, Islamophobic, racist mentality. And their silence on Palestine is in coherence with this Orientalist, Islamophobic, racist mentality. And we have another problem in mainstream mental health. Actually, this problem, I call it psychological imperialism, meaning that the knowledge that is generated by the West on the world map is very small in terms of number of people. But the knowledge that is generated by the West is assumed to apply everywhere. And that is not true. But science is ruled in a way that only certain knowledge can be expressed in medical journals. And that is the knowledge of the West. And much of the knowledge and wisdom of poor populations in Africa, in the Middle East, in Latin America, will not make it to medical journals. It requires big budget to do your research according to the Western evidence-based science and get the information there. So like that, a lot of our wisdom and our knowledge is being dismissed and not taken into consideration. All of that keeps us on the edges, on the margins of these institutions. And I want to say, to remind you of something. Western imperialistic psychiatry and medicine have came up with eugenics. Eugenics that decided who can breed and who cannot breed according to their characteristics. They came up with the pseudoscience that is called phrenology. It was decided that certain population are more superior to others according to the shape of their skull. They came with standardized psychiatric testing that decided that the white American is better than the Mexican, and so the Mexicans cannot rule themselves. So there are endless examples of how Western institutions, Western medical and psychiatric institutions, have contributed to colonial practices. And it is a time to challenge these practices. And this is not only something from the past, because until today, certain pathologizing terminology can be used against populations who resist Our anger is called aggression. Our protest is called oppositional defiance. Our sacrifice is called suicide. There are endless examples of pathologizing and dismissing our perspective because of psychiatric and mental health imperialism. So Palestine, I claim, can give an opportunity for mental health professionals to challenge international mental health imperialism at this time. Thank you. E veniamo ora alla domanda molto importante che ha fatto Marlene. Innanzitutto vorrei dire che il mito della neutralità e dell'imparzialità della salute mentale è stato definitivamente distrutto ed è crollato dalle prese di posizione estremamente attive per quanto riguarda il conflitto in Ucraina e dall'operazione di completo silenzio e di attivo silenziamento delle voci palestinesi messe in atto dalle istituzioni principali in questo senso. Si tratta di istituzioni che molto spesso sono guidate da delle persone che hanno delle mentalità con islamofobiche, con una fobia legata a tutto ciò che è orientale, e il loro silenzio quindi diventa coerente con queste tendenze, con questi approcci. La salute mentale mainstream, quindi la salute mentale predominante, è legata a quello che definirei imperialismo psicologico. Si ritiene infatti che la conoscenza generata dall'Occidente, che è pure geograficamente molto piccolo se si guarda su una mappa, sia applicabile ovunque, viene ritenuta fondata e applicabile in ogni contesto. E questo molto spesso è legato anche alla diffusione di questo sapere attraverso le riviste di sapere medico. Queste riviste sono estremamente esclusive e richiedono un grande budget per poter pubblicare con loro, il che implica che le popolazioni più povere, dall'Africa, nel Medio Oriente o in Sud America, molto spesso fatichino ad arrivare a pubblicare con loro e quindi ne restino escluse. In questo modo la conoscenza che queste popolazioni generano viene messa da parte e rimane ai margini, senza mai entrare in un discorso ufficiale. L'imperialismo psicologico occidentale si è applicato più volte nel quadro della medicina e vorrei solo ricordarvi che la stessa medicina occidentale è quella che ha prodotto l'eugenetica e che quindi decideva chi potesse generare vita e chi non potesse farlo. Vi ricordo che è la stessa che ha prodotto la frenologia, una pseudoscienza basata sul principio per cui la superiorità di una popolazione potesse essere individuata dai tratti fisici delle persone, dalla forma del cranio per esempio. È la stessa medicina che produce dei test standardizzati, test che hanno avuto come risultato la presunta superiorità degli americani rispetto ai messicani e che hanno portato alla conclusione che i messicani non si potessero governare da soli. Si tratta in tutti questi casi di delle pratiche esplicitamente coloniali, pratiche che vanno sfidate, vanno messe in discussione. Infatti la terminologia patologizzante può essere utilizzata contro le popolazioni colonizzate e in questo senso la nostra rabbia viene definita aggressione. La nostra protesta viene definita un atteggiamento positivo e sfidante. Alcune forme della nostra resistenza vengono definite suicidio. In questo contesto la Palestina diventa un laboratorio, la Palestina diventa un luogo che ci dà l'opportunità per sfidare questa egemonia, per questo imperialismo psicologico. There was another part of your question, the role of the psychiatrist, how difficult it is to be a psychiatrist. And I can talk endlessly about this, but I will say a few things briefly. First, I think easier to speak about myself without generalizing this for every psychiatrist. It has been striking for me to see the occupation behind the clinical presentation of almost every person who comes to the clinic. And I want to give you a very simple example, just to give you a flavor of how this can be felt. I remember an old woman came to see me for depression. She came with her husband and she started talking about sleeplessness, poor appetite, lack of energy. But one of the early questions that I asked her, where do you live? How many children do you have? She's an older woman. And she said 4 and her husband said 5. And I was perplexed, 4 or 5. She had one regard at her husband and he kept quiet. He couldn't say. So I wrote 4 in my file. So many months later, when she trusted me sufficiently, she told me that she had 5 children. One of them, her daughter, is married to a man. She and her husband sold their home in Jerusalem to a Canadian company that transferred the home to Israelis, and they immigrated to Canada. For her, this daughter doesn't exist anymore. I just want to give you this example because to tell you that if we listen carefully to people, you see the occupation behind every clinical presentation. Over the past year, I saw children who stopped eating, not because they have eating disorder, in reaction to starvation in Gaza. People, young people in Jerusalem and in the West Bank stopped eating. I saw women depressed because they are pregnant or they just gave birth to a baby. But they feel guilt and regret because they are bringing vulnerable kids to this life. So if you are a psychiatrist who is politically sensitive and aware, you will see how the politics intertwines with the personal can become very, very psychological for individuals. And the psychiatrist also in Palestine should adopt an ethics of non-neutrality. We cannot be silent about torture, regardless of who is implementing the torture, regardless of who is responsible for the torture. And this can get us into serious troubles. Ho dimenticato di rispondere alla seconda parte della domanda che riguardava il ruolo l'importanza del ruolo come psichiatra. Una domanda estremamente ampia e potrei effettivamente parlarne all'infinito, ma cercherò di limitarmi ad alcuni cenni principali. Penso che sia più facile condividere la mia esperienza personale, parlare di me stessa senza generalizzare rispetto a quello che vale per i miei colleghi. Per quanto mi riguarda, nella mia esperienza lavorativa, trovo le tracce dell'occupazione in ogni presentazione clinica, in ogni manifestazione clinica che mi trovo ad affrontare sul lavoro. Vi faccio un rapido esempio che vi dà un assaggio di questo concetto. È venuta da me in studio una donna anziana che soffriva di depressione ed è venuta con il marito. Quindi ha iniziato a descrivermi i suoi sintomi, l'insonnia, la carenza di appetito. E allora io le ho domandato, hai dei figli? Avete dei figli? E lei ha risposto subito 4. Il marito invece ha risposto 5. E c'è stato uno scambio di occhiate tra di loro. Io ho chiesto delucidazioni, il marito ha taciuto e lei ha ribadito 4. E quindi io sul mio file ho scritto 4. Mesi dopo, quando questa donna si è fidata di me a sufficienza, mi ha rivelato che effettivamente lei ha una 5ª figlia. Questa figlia si è sposata e lei e il suo compagno hanno venduto la loro casa ad una compagnia canadese che si incarica di fornire una possibilità di trasferimento in Canada e in cambio rileva le case per darle a degli israeliani. Ecco, la figlia si è trasferita in Canada e per questa donna sua figlia non esiste più. Questo è uno degli esempi che fanno vedere come dietro ad ogni manifestazione clinica ci sia una esperienza, una sfumatura dell'occupazione. Penso anche a molti bambini, molti adolescenti che ho visitato negli ultimi mesi che hanno smesso di mangiare e non si tratta di disordini alimentari come quelli che siamo abituati a diagnosticare in Occidente, ma si tratta di una reazione agli eventi a Gaza e alla mancanza di cibo a Gaza. Analogamente molte donne incinte vengono in clinica o neomadri e mi parlano di sensazioni di angoscia e di senso di colpa per aver messo al mondo dei bambini in un contesto così precario, così difficile, così pericoloso. Ritengo che dei compiti degli psichiatri sia di avere una sensibilità politica e che questo consenta con uno sguardo attento di individuare come la dimensione politica si intrecci con quella personale in questo contesto almeno. Ritengo anche che l'etica psichiatrica in questo quadro debba essere di non neutralità perché non si può rimanere in silenzio. Ritengo particolarmente importante sottolineare che non si può tacere davanti ad atti di tortura a prescindere da chi li commette e anche quando questo può creare e generare dei seri problemi personali e un serio pericolo personale. Buonasera. Come possiamo aiutarvi nel fare lavori insieme con evidenze scientifiche, mediche e infermieristiche in modo tale da cambiare il racconto della psichiatria dell'Ovest. Partner with Palestinian professionals and centralize the Palestinian experience. Try to synthesize knowledge from the Palestinian experience. The work is too heavy for us. We are very busy in the doing, in responding, but not sufficient time to reflect on what we are doing. So our colleagues can help us if they take part in the reflection, in the writing, in the synthesis of what we observe. Una brevissima risposta crea delle collaborazioni con degli autori palestinesi. È importante sintetizzare l'esperienza palestinese perché noi siamo molto impegnati nel rispondere, non abbiamo la risorsa per metterci a scrivere, elaborare e sintetizzare, quindi è questo che si può fare, creare delle partnership strategiche e pubblicare insieme. Sama e io vogliamo leggervi un poema su Gaza, tradotto in italiano, scritto in francese. È molto importante perché non solo è la regista che ha fatto il film con e su Sama dietro i fronti, ma è anche una cara amica che avrebbe voluto essere qui. Ci ha toccato anche emozionalmente, perché questo aspetto della salute mentale è proprio qualcosa che ci porta all'intimo nostro, e dunque mi sembra che il più bello è di finire su questo poema, dunque ve lo impongo. Un uomo che crepita, il braccio che chiama dal rogo del loro inferno, un uomo prigioniero, tanto crivellato da dietro dai suoi aguzzini fin da morirne, le lacrime di una bambina ormai sola al mondo. La mia testa rimuove gli ultimi 12 mesi di terrore, ma scava le tombe, dobbiamo capire che cosa ci stanno facendo. Emergono i corpi scheletrici dei bambini con gli occhi stralunati. Le urla. Le lacrime. È la calma di un nonno che fuma la sua sigaretta tra le macerie del suo salotto al piano alto. Il suo fumo dice: niente mi sradicherà. Un'ambulanza esplosa, una dottoressa marvegliana che corre sotto il tiro dei fuochi per portare in salvo un paziente. Un altro diritto che cammina tra le macerie verso un carro armato come verso un patibolo. Parole. E Bizan che divide la sua torta di compleanno con i sorrisi dei bambini del campo. Scava la tomba e negalo. Grappoli di prigionieri, occhi bendati, spogliati, nudi al freddo, costretti in ginocchio, la spina dorsale a curva, ma l'anima alta. Unai genera la simulazione della stanza dei prigionieri, occhi coperti, nudi, legati, in pannolone per affogare la loro autonomia e dignità nella loro merda. Ma non funziona, vorrei vedere la merda negli occhi delle loro guardie. Altri soldati dello stesso Stato, dello stesso sistema, dello stesso esercito, ed altri, dei decadenti che ballano travestiti, indossando i reggiseni rossi delle donne che hanno assassinata. Decadenza, declino. I coloni della Cisgiordania si recano a casa del sindaco per rifornirsi di armi. È il momento. Le urla, le parole enormi sul timeline del feed, le emoticone a rinforzo, per allertare, per saltare agli occhi. Le urla. Versus la televisione. L'inversione della realtà, l'inversione della colpa o il nulla. E Jaber che riporta un po' di senso e in termini di direzione e contenuto della parola lei riorienta. E loro, giornalisti, rapper, attori, politici, attivisti, loro elaborano, esprimono, affrontano, muoiono. Studenti e studentesse nelle occupazioni delle tende studiano il loro master di vita. Comici filosofici cadono in disgrazia e in disoccupazione. All'inizio superavo me stessa, oggi troppo spesso mi arrendo, ammetto la loro ineluttabile capacità di distruzione, il loro potere di fuoco, l'inferno. Perché? Come fermarli? Un altro potere di fuoco, fuochi d'artifici li hanno fatti vacillare, un razzo freddo diventa un'installazione d'arte contemporanea nel bel mezzo di un rotondo a Nablus. E dopo molteplici assassini di massa e presi a bersaglio, leader politici e civili e operatori sanitari nelle ambulanze. Walkie talkie, cerca persone, Motorola. Esplosione su tutto ciò che vive in Libano. Esplosioni di quartieri residenziali. Tutti devono sentirlo, no? Controcampi. Crociere nelle acque Gazawi. Sguardi predatori israeliani sulla terra che vogliono annettere. Già ci si vedono. Dall'altro lato dell'enclave altri colonosi su sedie di campeggio guardano lo spettacolo dei bombardamenti della loro collina, la predazione, il godimento sadico, il divertimento. Corpi aperti, decapitati, smembrati, esauriti, bambini e adulti. Gatti o cani mangiano la carne dei corpi senza sepoltura. Un altro cane attacca una donna anziana e le strappa parti del corpo. Il cane obbedisce agli ordini dell'esercito. Una bambina fotografata sola sotto l'occhio di un soldato è scomparsa da allora. Commerciano l'infanzia di coloro che vogliono sterminare? Sì, trafficano i bambini, gli organi e il futuro. Chissà se una cornea Gazawi porterà pregiudizi e ain, maledizione, a chi la porta, ladro putrescente, laggiù negli stati che portano danno. Sempre troppo piena, riempita dell'orrore, non posso che affidarmi a Dio, unico fornitore di miracoli. La politica fallisce nel fermare il tiranno, ma l'inizio del miracolo siete voi. Ti ricostruiremo. La più bella dichiarazione d'amore di sempre. Grazie a tutti per la presenza, per tutto.